Topic of our demo talk this late afternoon is mindfulness. And this being an essential mental factor, a mental quality that certainly we need in the context of Vipassana meditation. Quindi l'argomento del discorso di questa sera è la consapevolezza, in quanto è un elemento, una qualità mentale, uno stato mentale essenziale nell'ambito della meditazione Vipassana. Now, before going into the details of mindfulness, allow me to state in the gist of mindfulness meditation practice. Allora, prima di addentrarci nell'argomento, quindi di entrare nei dettagli, vorrei solo dire alcune parole su proprio il significato della meditazione dell'insight. Cosa si intende per meditazione dell'insight? So the basic features of mindfulness meditation in the Mahasi tradition of Vipassana meditation are being mindful of prominent objects in the body and in the mind as they come up in sitting, in walking and general activities. Quindi quello che si intende per consapevolezza nella meditazione dell'insight o di Vipassana, così come viene insegnata nell'approccio Mahasi, nella tradizione Mahasi, è l'essere consapevole di qualsiasi fenomeno, qualsiasi oggetto che sorga, sia nella mente che nel corpo, durante la seduta, durante la camminata e durante le attività quotidiane. Now, when observing the most predominant object that comes up, and then there's a few other very basic things to keep in mind. We want to observe one, for the most part, we want to observe one object at a time. And if there are two objects of equal prominence, then please you choose. Quindi la cosa importante nella nostra osservazione dell'oggetto è che tendenzialmente dovremmo osservarne uno per volta, un oggetto, un fenomeno predominante per volta. Se dovessero essere due gli oggetti predominanti, allora dovreste scegliere voi quale osservare. L'importante è che sia uno solo. Now, furthermore, we want to observe objects according to reality and not go into the land of imagination. Inoltre, vogliamo osservare gli oggetti secondo la realtà, diciamo, e quindi non diamo spazio alla immaginazione. Furthermore, mindfulness satna meditation is about and more and more coming into the present moment, and that's an ongoing project, if you like to. It doesn't happen right away. E inoltre nella meditazione di consapevolezza noi vogliamo avvicinarci sempre di più al momento presente, e questo è un processo, come dire, continuo, e quindi non è una cosa che avviene semplicemente o immediatamente. È necessario una sorta di progetto, un'intenzione per stare nel presente. Now, further important characteristic of mindfulness meditation practice is that it involves a continuous and gradual process of mental purification. The mind being purified of unwholesome states. Quindi un'altra caratteristica importante della meditazione di consapevolezza è che c'è un graduale, un continuo processo di purificazione mentale, cioè la mente continuamente si purifica degli stati mentali non salutari. And so, what mindfulness meditation is not, is it is not a form of samatha meditation where we keep reciting a certain phrase or certain word over and over and over again. And mindfulness meditation is also not a practice that is meant to, or that is thought to lead to a state of just well-being. Quello che invece la meditazione di consapevolezza non è una meditazione di samatha o di tranquillità mentale, nel senso che non si utilizzano delle parole o delle frasi che vengono ripetute più volte per trovare questa condizione. E allo stesso modo la meditazione di consapevolezza non è finalizzata a raggiungere uno stato di benessere. Maybe an even better word than benessere, well-being, would be, it's not a feel-good practice. No, we don't do this practice just to feel good. Quindi, in altre parole, noi non facciamo questa pratica per sentirci bene. Ecco, per avere questo. No, as has been stated already yesterday, as more this morning, mindfulness meditation also involves restraint of our senses, so seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and the mind. Quello che, così come abbiamo detto ieri sera, ancora meglio questa mattina, la pratica della consapevolezza consiste anche nel tenere un po' a bada i nostri sensi, quindi limitare l'attività del vedere, udire, odorare, gustare, toccare e pensare. No. Further important aspect is the slowing down of all activities. So slowing down in the walking meditation, slowing down one's general activities. Un altro aspetto importante è quello del rallentare, quindi cerchiamo di rallentare nella nostra meditazione camminata o nelle attività quotidiane. And if on occasion you have difficulties with this and you rather prefer to race around, then there's some mental resistance, resentment towards the slowing down, then you could consider taking that resistance as an object itself. And you label it, you observe it, you know its nature. E se vi capita di avere un po' di resistenza nei confronti di questo dover rallentare nelle proprie attività, allora potete prendere questa resistenza della mente come oggetto di osservazione e lo trattate come un qualsiasi altro oggetto, cioè lo osservate, lo etichettate mentalmente e ne capite la natura. Furthermore, mindfulness sati meditation usually comes in the context of a certain helpful structure, and satna then this consists of a schedule of regular sitting sessions, walking sessions, and mindfulness in general activities, plus the regular interviews and satna dhamma talks. Un altro aspetto importante è che questa pratica di consapevolezza è inserita all'interno di una struttura che serve proprio per aiutare la pratica, e questa struttura consiste in un orario prestabilito da seguire con meditazioni sedute e camminate alternate, in più delle attività quotidiane da svolgere e i colloqui individuali giornalieri con l'insegnante. Now, the Buddha has spoken on many occasions about mindfulness. There are many sutras or suttas and discourses that deal with mindfulness. And out of those, the most important one is probably the Satipatthana Sutta. Quindi in molte occasioni il Buddha ha parlato di questa qualità nella mente, nella consapevolezza, e ne ha parlato in tanti sutta, in tanti discorsi, e forse il più importante di questi è il Satipatthana Sutta. And we will not have the time to go into all those many aspects related to the Satipatthana Sutta, not at least right now, and thus allow me to give you a synopsis of the meditation instructions as given in the Satipatthana Sutta itself. Non avremo il tempo di analizzare tutto questo importante discorso, Satipatthana Sutta, però quello che farò è di fare una specie di riassunto delle istruzioni di pratica che sono contenute nel Satipatthana Sutta. Here a retreatant dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. Allora si dice nel Satipatthana, qui dimora un meditante osservando il corpo nel corpo, mettendo da parte ogni forma di brama verso il mondo, verso le cose del mondo, in modo ardente, comprendendo chiaramente e in piena consapevolezza. No. Devo ripetere? They want me to repeat. To repeat it, okay. So maybe we can break it up. A retreatant dwells contemplating the body in the body. Ardent. Okay, so quindi meditante dimora contemplando il corpo nel corpo. Ardent. Tre aggettivi. Ardente. Clearly comprehending. Comprendendo chiaramente, mindful, e consapevole, having removed covetousness and discontent in regard to the world, avendo rimosso la brama e la scontentezza nei confronti delle cose del mondo. No. Then, following that same structure, the discourse goes on. One dwells contemplating feelings in feelings, again ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and sad discontent in regard to the world. E poi questa struttura è ripetuta nei confronti di un altro aspetto, diciamo, campo di osservazione, cioè il meditante dimora osservando le sensazioni nelle sensazioni, ardente, pienamente comprendendo e consapevole, avendo messo da parte ogni brama e ogni scontentezza nei confronti delle cose del mondo. The next category of objects are objects connected with the mind. So it says, one dwells contemplating the mind in the mind, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. La terza categoria di oggetti di meditazione riguardano gli oggetti mentali, e quindi le istruzioni sono: il meditante dimora osservando la mente nella mente, ardente, pienamente comprendendo e consapevole, mettendo da parte la brama e la scontentezza per le cose del mondo. The last 13 category of objects is referred to as dhammas, and I'll explain in a moment what this means. And certainly, so one dwells contemplating dhammas in dhammas, ardent, clearly comprehending and mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. La quarta categoria sono i dhamma, lo spiegheremo tra un attimo, e di nuovo viene ripetuta la stessa struttura, quindi si dimora contemplando i dhamma nei dhamma, ardente, pienamente comprendendo e consapevole, avendo messo da parte o rimuovendo, diciamo, la brama e la scontentezza, l'insoddisfazione nelle cose del mondo. No, the Satipatthana Sutta itself does explain what it means by dhammas, namely the set of the five hindrances, the set of the five aggregates, then the six sense spheres, then the seven enlightenment factors and the four noble truths. Allora, nel Satipatthana viene poi spiegato cosa sono questi dhamma, cosa è composta questa quarta categoria di oggetti, e sono i cinque ostacoli, i cinque aggregati, le sei sfere sensoriali, i sette fattori di illuminazione e le quattro nobili verità. No. You can see from the synopsis of the mindfulness of the Satipatthana instructions that the basic instructions are the same, namely to observe an object, an object with ardency, with clear comprehension, and with mindfulness. The only difference is that then a distinction is made between the four different categories of objects, but in essence it all boils down to being mindful. E quindi possiamo vedere da questo riassunto, diciamo, delle istruzioni di pratica che l'indicazione poi è sempre la stessa, la struttura è la stessa, cioè occorre osservare l'oggetto con ardore, con piena comprensione e con consapevolezza, e quindi l'unica differenza in realtà è riguardo alle quattro categorie di oggetti che si devono osservare, ma alla fine il succo del discorso è che occorre avere la consapevolezza nell'osservazione. And now, before going further and explaining in greater detail about mindfulness, allow me to briefly say a few words about contemplating. Anupasana or anupasati. Anupasati means he, she, it contemplates. To contemplate means that one observes an object repeatedly. So there's this aspect of repetition. Quindi prima di entrare nell'argomento proprio della consapevolezza, dirò un paio di cose sulla contemplazione, cosa si intende per contemplare. In pali è anupassati, che vuol dire lui o lei contempla, e quindi questa c'è l'idea dell'osservazione ripetuta dell'oggetto. No. In the West, we might not like repetition too much. However, since, for instance, the mind is an extremely diversified phenomenon, to fully understand its nature, we do need to contemplate it. We do need to observe it over and over and over again. qui in Occidente a noi non piace molto la ripetizione, diciamo, però siccome la mente è un fenomeno variegato, diciamo, è variabile, allora è molto importante per poterla conoscere osservarla, contemplarla ripetutamente, tante tante volte. No. The Pali term Satipatthana, which is another word used for the discourse, has been translated in various ways. For one thing, as previous in the past, as foundations of mindfulness, then furthermore as establishments. Of our establishment of Phatnet mindfulness, and a newer translation is as presence of mindfulness. Quindi questa parola Satipatthana, da cui prende il nome il sutta, è stato tradotto in vario modo. Quello tradizionale è i quattro fondamenti della consapevolezza, ma è stato tradotto anche come lo stabilizzarsi della consapevolezza, o ultimamente lo si traduce come la presenza della consapevolezza. Now, the preferred translation of this term, Satipatthana, in the Mahasiddhanta tradition is as establishment of mindfulness, with further qualifications, namely a firm, close, and steadfast establishment of mindfulness on the respective object of observation. Nella tradizione Mahasi si preferisce tradurre Satipatthana come lo stabilizzarsi, diciamo, no, della consapevolezza, e si aggiungono tre aggettivi per definire meglio questa consapevolezza, e sono, can you just repeat the three adjectives, affirm, firm, close and steadfast. Quindi ferma, ravvicinata e costante. Consapevolezza sull'oggetto che si sta osservando. Yes. And so, the specification as a close observation is there, and that is the general approach. However, as explained this morning, on occasion when the mind tires, then we can observe an object more from a distance. Quindi l'indicazione è appunto un'osservazione ravvicinata dell'oggetto, come abbiamo spiegato stamattina, però può capitare a volte, quando c'è tensione nella mente, che si allontani un pochino l'osservazione dell'oggetto. Now, the Dhammasangani, which is the first among the different works of the Abhidhamma, the Buddha's philosophy and psychology, this Dhammasangani then defines the term mindfulness sati in the following way. Quindi nel Dhamma Sangani, che è la prima parte dell'Abhidhamma, questo testo che tratta della filosofia o psicologia, diciamo, buddista, definisce sati, questa parola sati, nel seguente modo. And it says mindfulness is constant mindfulness, bearing in mind, non-superficiality, non-forgetfulness. Quindi lo definisce in questo modo, e qui mi do gli elenchi mi mandano in crisi. So the first is constant mindfulness. Quindi è costante. Bearing in mind. È una cosa che tiene a mente, trattiene nella mente. Non superficiality. Ha la caratteristica della non superficialità. And that non forgetfulness. E della non dimenticanza. And then there's one more, namely as recollection. E quindi, e poi c'è un'ulteriore definizione, diciamo, che è quella della recollection, che vuol dire riportare alla mente, un po' come ricordare, però in inglese c'è quest'altro termine, che è portare proprio alla mente. And so that particular aspect is certainly important in the context of a practice such as Buddha Nusati, namely a recollection of the virtues of the Buddha. E questo è un aspetto importante, soprattutto nell'ambito di una particolare pratica che si chiama Buddha Nusati. Buddha Nusati, che vuol dire riportare alla mente le qualità del Buddha. Now, so at that point there is a certain aspect of remembering that comes in. Ecco che in questo contesto entra in gioco questo aspetto del ricordarsi, riportare la mente. Now, modern terms that have been proposed for sati are, apart from mindfulness, awareness or presence to what is happening, or further observing power. Ci sono poi delle traduzioni più moderne di questa parola sati. Una è awareness, che in italiano è sempre consapevolezza, quindi è difficile da tradurre. L'altra è presenza mentale, oppure potere di osservazione. Now, the Venerable Sāyadhūpaniṭa on occasion tries to bring a point across by way of an illustration. And so, on occasion he will ask a retreatant who comes and says, please, can you tell me what mindfulness is? I don't understand. And he says, take your hand. And suddenly then, slowly form a fist. And this then involves clenching one's hand. Now, as one does this, be mindful. Be mindful and then observe carefully what do you experience in terms of sensations that come up in the hand as one is forming a fist. Sāyadhūpaniṭa, spesso per spiegare che cos'è la consapevolezza, quando arrivano le persone, gli allievi, gli chiedono ma di cosa si tratta esattamente, allora usa un esempio, fa fare loro un esercizio e dice prendi la tua mano e chiudila a pugno e cerca di essere molto attento e consapevole di tutte le sensazioni che sono coinvolte, diciamo, implicate in questo gesto del chiudere la mano fino a farla diventare un pugno. Or, on occasion, he would ask the retreatant to, from the standing posture, to slowly change into the sitting posture, and then to be aware of all the many different sensations that come up in the body. Oppure può invitare un meditante a passare dalla posizione in piedi a quella seduta in maniera molto molto lenta e di essere consapevole di tutti i piccoli movimenti, i micro movimenti, di tutte le sensazioni che prova nel fare questa azione. Now, when we do new things quickly and in an absent-minded manner, maybe even in an automatic manner, then we miss a tremendous amount of details. Quando facciamo le cose velocemente, in modo distratto, a volte in modo automatico, ecco che perdiamo tantissimi dettagli importanti. No. The classical a definition of mindfulness will be given, followed by a number of other qualities that mindfulness ideally should possess. Allora, prima daremo la definizione classica di cosa si intende per consapevolezza, poi daremo una serie di qualità che la consapevolezza di Vipassana, diciamo, deve contenere. The first one is the characteristic of mindfulness, and satna, this is satna in short given as non-superficiality. In other words, as not wobbling or not floating away from the object. Quindi la prima caratteristica, o la caratteristica della consapevolezza, è la non superficialità. Questo significa che la mente non traballa o non si allontana dall'oggetto che sta osservando. Now, the commentaries explain this by giving a negative example first. When you take a hollow and dried pumpkin and you throw this onto the surface of a river, then, or let's say a stream, then that hollow dried pumpkin will float and bob up and down on the surface of that stream. I commentari usano un esempio in negativo per far capire cosa si intende e usano questa metafora di una zucca vuota lanciata in un ruscello. Ecco che questa zucca vuota galleggerà e andrà su e giù lungo il ruscello. And so that certain illustration then stands for absent-mindedness, namely absent-mindedness that is simply just skimming over the surface of an object. Quindi questo è un esempio per la mancanza di consapevolezza, la distrazione, ecco. Corrisponde a quella mente che in realtà sta semplicemente sfiorando l'oggetto, sta galleggiando, diciamo, sull'oggetto in superficie, ma non va più a fondo. No, to express certain things positively, mindfulness is rather like a stone thrown, stone or a smaller rock thrown into a river. And a stone, because of its weight and certain the force of gravity, will be for sure pulled towards the bed of the, or towards the river bed. Viceversa, invece, per fare un esempio in positivo, si può pensare al lanciare una pietra in un fiume, in un ruscello. Ecco che il peso della pietra, la forza di gravità, faranno sì che la pietra va a fondo. And what this illustration then implies is that our mindfulness should be like that stone or small rock sinking into the object. Quindi quello che si intende qui, che si vuole illustrare qui, è che la nostra consapevolezza dovrebbe essere come questa pietra che, appunto, lanciata verso l'oggetto, va a fondo. The more the mind, the observing mind, sinks into an object, the more details it will be able to pick up. Perché più una mente consapevole sprofonda nel suo oggetto, e maggiori saranno i dettagli che riuscirà a cogliere. No. The function of mindfulness is given as asamosata rasa in the Pali scriptural language, which then means keeping the object in view, or differently put, absence of confusion or non-forgetfulness. Invece la funzione della consapevolezza è quella del tenere sempre ben in vista l'oggetto, in altre parole la non confusione riguardo all'oggetto o la non dimenticanza. So when a predominant object is there, then we don't want to lose sight of it, we don't want to miss the object, forget the object, but nor do we want to allow it to disappear. So we want to keep an eye on it. Just like maybe a soccer, or for sure a soccer player, will have to keep an eye on the football. Quindi questo significa che quando sorge l'oggetto predominante noi non lo perdiamo di vista, non ce ne dimentichiamo, lo teniamo d'occhio, così come un calciatore terrà d'occhio la palla, il pallone. No, the mental states are classically defined by way of characteristic, by way of function. So we've covered those two aspects with regard to mindfulness. And then the third aspect is the manifestation of a particular mental state. So how do we experience that particular mental state in our practice? Quindi gli stati mentali di solito sono definiti sulla base della loro caratteristica, la loro funzione, e questo l'abbiamo detto, poi anche della loro manifestazione, cioè come si fa esperienza, come si esperisce quel particolare stato mentale nella nostra pratica. No. There are two manifestations being attributed to mindfulness. The first one is a state of confrontation, so the observing mind is in a state of confrontation, being face to face with the predominant object, and the second manifestation is as protection. Quindi ci sono due manifestazioni della consapevolezza. La prima è la, non so se in italiano si dice, l'essere faccia a faccia con l'oggetto, il confrontarsi con l'oggetto, essere un rapporto diretto con l'oggetto, e il secondo invece è la manifestazione in termini di protezione, quindi la consapevolezza come protezione. No. When we observe an object of observation, then we will want to give full attention to it and be really face to face with this object. If that's not the case, it will be difficult to clearly know its nature. Quindi quando stiamo osservando un oggetto predominante vogliamo proprio averlo di fronte, faccia a faccia, diciamo, a dare a questo oggetto la nostra piena attenzione, altrimenti sarà molto difficile capirne la vera natura. As an illustration in this certain regard, if you want to study the features, the facial features of another person, then you have to be face to face with that certain person. If you stand at an angle, if you stand behind the person, you won't be able to discern his or her facial features. Come un esempio di questo aspetto della consapevolezza, potete pensare al voler analizzare le caratteristiche facciali, diciamo, di una persona, si dice le caratteristiche, i tratti fisici di una persona. Se ce l'avete di fianco o se state dietro la persona non riuscirete a cogliere i dettagli, no? I tratti distintivi di questa persona, dovete proprio averla di fronte, faccia a faccia. No. The second manifestation of mindfulness is as protection, and so this is a really important aspect. Now, the first manifestation is equally important. In the presence of continuous mindfulness, unwholesome mental states will not have a chance to arise in the mind. However, in the absence of continuous mindfulness, unwholesome mental states will happily and easily arise in the stream of consciousness. La seconda manifestazione, che è quella della protezione, è molto importante, in quanto se c'è una consapevolezza continua, ecco che gli stati mentali non salutari non avranno modo di sorgere. Viceversa, se la consapevolezza invece è frammentaria, non è continua, allora sì che molto facilmente e felicemente gli stati mentali negativi o non salutari sorgeranno. When the mind is certainly face to face with whatever predominant object comes along, and certainly this over a longer period of time, retreatants typically experience at least a relative degree of purity. And satnya, that then has to do with satnya, the second manifestation of satnya mindfulness, namely as protection. The mind is protected from, you know, the attack by unwholesome mental states. E questa è un'esperienza che possono fare i meditanti quando sviluppano un certo grado di consapevolezza continua, che la mente diventa purificata, diciamo, non è più, non deve più subire l'attacco dei stati mentali negativi che sorgono, e in questo senso la consapevolezza fa da protezione. Now, should on occasion a difficult mental state like fear can come up in the mind, and certainly this might happen on occasion, then the continuity of mindfulness is extremely important, because suddenly then the fear won't have a chance to arise, and as a result, the mind will be protected. If, however, there are smaller or larger gaps in one's certain flow of mindfulness, well, then the fear will easily arise. Se dovessero sorgere degli stati difficili, come la paura, per esempio, che può sorgere in meditazione, ecco che se la consapevolezza è continua, la paura non avrà modo di sorgere. Ma se ci sono dei buchi, degli spazi più o meno grandi nella consapevolezza, ecco che invece questo stato mentale della paura può sorgere, e la mente quindi non è più protetta. Now, two nearest causes or conditions for the arising of mindfulness are being mentioned in the text in the Visuddhimagga. And the first one among those is Thirasanya Padadana, namely a strong perception of the respective object of observation. Quindi, per quanto riguarda le cause prossime o le condizioni che fanno sorgere la consapevolezza, il Visuddhimagga ne indica due. La prima è una forte percezione dell'oggetto che si sta osservando. So the perception of an object precedes many other steps in the cognitive fitness series. And so if the perception of an object is rather strong, rather clear, then it will be easy for the mind to process that object, to be mindful of it. But if the perception of an object to start with is vague, is blurred, etc., then mindfulness can't really operate. Quindi la percezione di un oggetto è, diciamo, il primo momento di una serie di momenti nel processo cognitivo. Se la percezione dell'oggetto è forte, è chiara, ecco che sarà più facile che la consapevolezza si sviluppi. Viceversa, se la percezione dell'oggetto è confusa e è vaga, allora sarà più difficile che la consapevolezza si sviluppi o diventi forte. The second approximate or nearest cause for the arising of mindfulness is given as the four establishments of mindfulness itself. And what this means is that if our mindfulness is pretty continuous, moment after moment, over a longer period of time, then the resulting mindfulness that occurs maybe, or that will be present after 5 minutes, that will be relatively strong. But if one's mindfulness is to start with rather discontinuous, so there'll be a few moments of mindfulness, followed by many moments of absent-mindedness, and then again a little bit of mindfulness, that kind of the resulting mindfulness after 5 minutes will be relatively weak. Quindi la seconda causa prossima per lo sviluppo della consapevolezza, la seconda condizione affinché si sviluppi, è la consapevolezza stessa, cioè le quattro fondamenti della consapevolezza. Se la consapevolezza è continua per un arco di tempo abbastanza lungo, per dire 5 minuti, ecco che la consapevolezza risultante, cioè quella finale, sarà piuttosto forte, perché è stata in qualche modo sviluppata sulla base della consapevolezza precedente. Se invece la consapevolezza è frammentaria ed è interrotta, quindi c'è un momento di consapevolezza, un momento di distrazione e via di seguito, la consapevolezza risultante alla fine del processo non sarà poi così forte, sarà debole. So then please do try to work on, continuously work on improving more and more the continuity of your mindfulness, and you will not regret it. Quindi cercate di, di sviluppare questa continuità nella consapevolezza e non ve ne pentirete. Now, beginning retreatants oftentimes don't quite get the point. And so they may think, well, my mindfulness is pretty continuous, so what to worry about. But when a retreatant has practiced over a longer period of time, let's say even several weeks or several months, then such a retreatant will realize how strong the mindfulness overall has become, and how much attention one is really paying to continuity of mindfulness in comparison to the outset of one's sudden retreat. So at the outset of one's retreat, the continuity of mindfulness tends to be pretty intermittent. Spesso i principianti non si rendono ben conto dell'importanza di questo aspetto, della continuità della consapevolezza, e possono ritenere che la loro consapevolezza è abbastanza continua, è abbastanza soddisfacente. Ma quei meditanti che fanno periodi più lunghi di settimane o anche di mesi possono a un certo punto veramente rendersi conto di quanto è diventata forte la loro consapevolezza rispetto, per esempio, alla consapevolezza che avevano fuori dal ritiro. E facendo il confronto si rendono conto di quanto prima fosse molto intermittente rispetto invece a quella che hanno sviluppato nel tempo con la pratica. Now, mindfulness practice is clearly clearly a very dynamic activity if it's done properly. Quindi la meditazione di consapevolezza è chiaramente un'attività dinamica se è fatta nel modo giusto. Which then translates as follows, namely, when a predominant object has arisen either in the body or in the mind, then immediately our mind needs to go towards that object. So it's this aspect of immediacy that needs to be highlighted. And nothing should come in between the arising object and the observing mind. Nothing such as, let's say, wandering mind, or asking oneself questions, why is this object coming up, and what are the conditions, and so on. Quindi quando sorge un oggetto predominante, la mente deve immediatamente fiondarsi verso quell'oggetto. Quindi c'è questo elemento della immediatezza che è di fondamentale importanza, e non ci deve essere nulla che si frappone tra l'oggetto che sorge e la mente che lo osserva. Cos'è che potrebbe interferire? Per esempio la mente che divaga, oppure il farsi delle domande, l'analizzare, cos'è che l'ha fatto sorgere, perché è sorto, eccetera, eccetera. With the people who whose work entails having to deal with plenty of customers, this quality of immediacy is really important. So you just start to think of those airline staff members who are working at the check-in counter. So they've got a big plane, the plane load of passengers to check in. Let's say 200, could be even 250, could be even 300, depending on the size of the plane. And there is no extra time for that staff at the check-in counter to waste on, let's say, casual talk. They have to be totally focused and deal with whatever situation comes up immediately. Le persone che hanno a che vedere con, che hanno un lavoro che ha a che vedere col trattare clienti, conoscono molto bene questo problema dell'immediatezza. Oppure pensate, a mo' di esempio, alle persone che lavorano in un aeroporto e che stanno al check-in. Devono molto velocemente fare il check-in a 200-250 persone che devono riempire l'aereo e non hanno tempo da perdere, per cui sono molto molto attenti e non perdono il tempo in chiacchiere, perché hanno questa urgenza, questa immediatezza nel far passare tutti i passeggeri. So then maybe ask yourselves, is your mindfulness up to the standard of one of these airline staffers at the check-in counter? Are you really mindful of, let's say, 300 objects arising in an hour? Quindi potete farvi questa domanda: noi siamo all'altezza di questo personale dell'aeroporto che deve fare il check-in a tutte queste persone? Per esempio potete chiedervi: io sono consapevole di almeno 300 oggetti che possono sorgere nell'arco di un'ora. Come le ferrovie italiane. Since we're like the Italian railway system. Now, the mindfulness that needs to possess many different certain qualities. Another one is that at least during intensive practice, our mindfulness needs to be outstanding and not just ordinary. And furthermore, it needs to be intense. And subness, intense, persistent, if you like to, even excessive. La nostra consapevolezza nell'ambito della meditazione deve possedere particolari caratteristiche. Per esempio, deve essere straordinaria, non deve essere una consapevolezza ordinaria. Poi deve essere continua, deve essere costante e deve essere addirittura eccessiva. Before you said excessive, there was another intense, intensa, deve essere molto intensa e a volte anche eccessiva. Okay. Persistent, l'ho detto, quindi persistente, continua, costante. Right. So sometimes when people are new to the mindfulness practice, they think they can take a casual approach to this practice. So casually being mindful here and there, and then daydreaming a little bit, and that just doesn't work. Alcune persone, quelle che magari si stanno avvicinando alla pratica, ritengono che è possibile avere un atteggiamento casual, diciamo anche in italiano, oppure molto rilassato nei confronti della meditazione. Quindi sì, un pochino sono consapevole, un po' mi distraggo, è così, molto leggero, diciamo. No. The commentary to, you know, the Satipatthana Sutta, you know, then, you know, points out that one's mindfulness, you know, should, you know, rush towards the predominant object. The Pali term, you know, used for this is pakandana. And pakandana meaning rushing, leaping, plunging into an object. So as soon as an object has arisen, right away the mind should go towards it. Quindi nel commentario del Satipatthana si definisce un po' meglio questo tipo di consapevolezza dicendo che la mente deve, in qualche modo, deve fiondarsi, deve correre, deve buttarsi, lanciarsi, sprofondare nell'oggetto appena esso sorga. So, you know, we want to, you know, then observe an object with courage and certainly without hesitation, without certainly getting lost in thinking, reflections, imagining and so on. Quindi vogliamo avere appunto coraggio nell'osservare il nostro oggetto, determinazione, e non vogliamo distrarci con pensieri, fantasie, immaginazioni, eccetera. So, with this, it becomes pretty, you know, obvious that we do need to be active in our mindfulness practice. E questo sta proprio a indicare il fatto che dobbiamo essere attivi nella nostra pratica di consapevolezza. So it's not just sitting there and then enjoying the tranquility of the mind for a while. Non si tratta quindi di starsene lì, belli, seduti, tranquilli e godere di questa tranquillità della mente per un certo periodo. No, with certain regard to certain objects, we want, or with regard to certain objects, especially mental objects, they are somewhat difficult to grasp. And so this grasping, firmly holding on to an object of observation, is yet another quality of mindfulness. Alcuni oggetti, soprattutto quelli mentali, sono molto difficili da afferrare, no? Da trattenere. Questa capacità di stare con l'oggetto, di afferrare l'oggetto che sorge, il fenomeno che sorge, è un'altra delle caratteristiche della consapevolezza di Vipassana. Some objects are as slippery as an eel. Alcuni oggetti sono scivolosi come delle anguille. And if you happen, you know, to come across such an object, let's say, you know, sleepiness, yeah, then, you know, really you need to make a big effort to firmly grasp this certain mental state. Se incontrate un simile oggetto, come per esempio la sonnolenza, ecco che dovete mettere un certo sforzo per poter afferrare, conoscere, insomma, questo particolare stato mentale. No. When it comes to an object of observation like the rising and falling movement of the abdomen, but it also applies to other objects, we want to observe an object completely, you know, in its entirety. So we want to cover an object completely from start to finish. Quando osserviamo un fenomeno come per esempio l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, allora vogliamo con la nostra consapevolezza coprirlo interamente, seguirlo dall'inizio alla fine del processo. Questo vale anche per altri oggetti di osservazione. So, at the very outset of one's practice, this is not so easy to do. It's actually during the outset of one's practice, the mind will be focused typically just on the middle portion of an object, and then as time goes by, the mind is focused on the middle and the ending of an object, and then gradually the beginning part also becomes obvious. Questo non è così comune da fare, cioè questo aspetto non è così comune al di fuori della pratica. Di solito quando osserviamo un oggetto fuori dalla pratica ne cogliamo solo la parte centrale, poi col tempo e con l'esercizio, con la pratica, riusciamo a cogliere la parte centrale e poi la parte finale di un fenomeno, di un oggetto, ed è solo poi con un'ulteriore pratica che riusciremo a vedere tutto il processo dall'inizio alla fine. And so, you know, this thing may have a bearing for the observation of a pain, just to give one example. And so when a pain has arisen, then you want to observe the whole thing from start to finish, even though your mind might be revolting. E questo, per esempio, lo potete fare con il dolore. Quando sorge il dolore, dovreste cercare di seguirlo dall'inizio alla fine, anche se questo può essere una cosa difficile da fare. Now, the continuity of mindfulness has been stressed already quite a bit, and the Venerable Sayadaw Pandita of Burma gives one nice illustration. He says the mindfulness should not have gaps, like the small gaps between the wooden planks here of the floor. Abbiamo parlato dell'importanza della continuità, della consapevolezza, e Sayadaw Pandita, questo maestro birmano, fa l'esempio di un pavimento con le assi di legno. Non deve essere come un pavimento con le fughe molto larghe tra un asse e l'altra, quindi le assi devono essere molto ravvicinate. So when there are gaps between the floor boards, then all sorts of dust and dust and pebbles and whatnot might accumulate right in that certain gap. And likewise, when there is a discontinuity in one's mindfulness, well, then all sorts of unwholesome mental states that might accumulate in the mind. Quindi così come se c'è troppo spazio tra un asse di legno e l'altra, questo può far sì che si accumuli della sporcizia, della polvere al loro interno, così se non c'è una consapevolezza continua, allora nella mente possono accumularsi questi stati mentali non salutari o inquinanti mentali. Now, this mindfulness practice certainly is also quite outstanding in the sense that we are not ultimately speaking, we're not really in control of things. And so, and two, our effort should be towards an objective observation of what really is, without trying to manipulate our experiences, without trying to control things and the like. Quindi questa pratica di consapevolezza in qualche modo ci fa vedere anche il fatto che noi non siamo in controllo di ciò che accade, quindi l'osservazione deve essere il più possibile oggettiva, una semplice appunto osservazione di ciò che accade senza cercare di interferire o di manipolare o di controllare la nostra osservazione del fenomeno o il fenomeno stesso. Now, this then gives you already quite a long list of different qualities of mindfulness. Quindi questo già è una lista abbastanza completa, lunga, delle caratteristiche, delle qualità che deve avere la consapevolezza. Now, to add still a bit more, we want to observe objects with a detached attitude, detached and calm attitude. Inoltre dobbiamo osservare gli oggetti con un atteggiamento distaccato e detached and calm. E calmo. And certainly in one passage in the text, the Buddha speaks of mindfulness as, in terms of an illustration, as the probe of a surgeon who then wants to explore the nature of a wound. E in uno dei suoi discorsi il Buddha paragona questo tipo di consapevolezza, che è una consapevolezza un po' particolare, speciale, proprio come un sondino, diciamo, una sonda, così, di un chirurgo che vuole esplorare o capire bene cosa c'è dentro una ferita. So that probe gathers or helps the surgeon to gather information about the nature of the wound. So too, mindfulness helps the retreatant to gather information about the nature of a predominant object. E quindi così come questa, si dice sonda in italiano, questo sondino del chirurgo cerca di capire, o aiuta il chirurgo a capire la natura della ferita, così la consapevolezza ci aiuta a capire la vera natura dei fenomeni. During our mindfulness practice here, let us try to keep the mind as much as possible free from concepts, which means the mind has this tendency of putting concepts onto experiences. So then trying to see something that one maybe has read about or heard about, and that's not the way to go. And instead, it is called for, we need to let go of concepts and just go for straightforward observation, what is really happening. Allora, mentre cerchiamo di sviluppare la nostra consapevolezza nel contesto di questo ritiro, cerchiamo di non aggiungere dei concetti alla nostra esperienza, perché la mente ha questa tendenza a voler appiccicare dei concetti all'esperienza sulla base di quello che si è sentito, si è letto, eccetera. Quindi Vante ci invita invece ad avere una osservazione diretta dell'oggetto così com'è, senza nessuna aggiunta di concetti. From an Abhidhamma point of view, mindfulness is certainly classified as a wholesome mental state. L'Abhidhamma classifica la consapevolezza come un stato mentale salutare. And certainly more specifically, it's spoken of as one, namely the second, of the 19 universal beautiful mental states. Ed è classificato all'interno di questo elenco dei 19 stati mentali universali e meravigliosi, e in particolare al secondo posto di questa lista. Allow me to conclude today's Satna Dhamma talk on mindfulness by wishing may this universal beautiful mental factor arise many times in your practice, and towards Satna this end may you be not negligent in your practice. Concludo il discorso di questa sera augurando che questo stato mentale universale e meraviglioso della consapevolezza, questo fattore mentale, sia sempre più presente nella vostra pratica e in questo modo vi impedisca, diciamo, di essere negligenti nei confronti della pratica. Okay. And that's it for tonight. E stasera chiudiamo qui. Sadhu, sadhu, sadhu.